santae prepotenze, animo via di qua. Con chi parlate? Parlo con voi, né più vi voglio in casa. Lo sapete chi sono? Io so che siete un affamato, un temerario e assai. Ombra del re, fine, che mai dirai?